Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. Aprile è il mese più crudele, generandoli là da terra morta, confondendo memoria e desiderio, eccitando spente radici con pioggia di primavera. Oggi è il primo giorno utile di aprile nel quale ci possiamo parlare. A noi non interessa perché per Thomas Eliot nella Terra Desolata aprile è stato il mese più crudele. Noi sappiamo che per noi oggi veramente è il mese più crudele. Perché aprile è il mese più crudele? Aprile è il mese più crudele perché aprile è il mese per eccellenza in cui il mondo si risveglia, noi ci risvegliamo, i nostri sensi si risvegliano, ma non tutti noi siamo in età d'amore. Eppure l'amore rapace e repentino ci coglie e ci tenta. Ma allo stesso tempo la vita ci soffoca, ci deprime, ci porta da tutt'altra parte. E come si fa a resistere in questo mese, sentendo appunto il lillà, il profumo della primavera, sentendo i sensi che si risvegliano anche se le nostre pelli sono avvizzite? Come si fa a resistere al mese più crudele? E questa crudeltà che in fondo ci piace ci dà il senso che un altro anno è passato, un altro aprile ci prenderà, ci rapirà, ci porterà per i capelli, poi la vita ci rischiaccerà nuovamente e ci rimetterà a fare quello che a me mestamente è il nostro destino, cioè di fare uomini qualunque, di essere soffocati nella folla di persone qualunque, di avere famiglie, di avere lavoro, di avere oneri, dover pagare le tasse, l'IMU che non si sa come conteggiarla. E come facciamo a fare i conti con questo crudele mese che in realtà ci porterebbe da un'altra parte? 800 24 00 24. Nell'isola di Creta viveva un mostro spaventevole detto Minotauro, mezzo uomo, mezzo toro, una creatura così trista che faceva orrore perfino a pensarci. Fosse stato almeno in un'isola deserta o nel buio di una caverna profonda e la gente non fosse stata afflitta dalla vista della sua figura abominevole. Ma invece, il re Minosse, che regnava in Creta, aveva speso un monte di quattrini per fabbricargli una dimora principesca. Aveva una grandissima cura della sua salute e voleva che godesse di tutti gli agi della vita. Qualche anno addietro c'era stata una... Sarà stato crudele il mese d'aprile anche per il Minotauro, ve lo immaginate, al centro del labirinto, solo, disperato, costretto ad appagarsi soltanto con questo fatale sacrificio di vergini, di fanciulle, di fanciulli. Ma cosa c'è a monte il Minotauro? Anche al monte di Minotauro probabilmente c'è un mese d'aprile che fu crudele per la mamma del Minotauro che lo generò in questa innominabile maniera, racchiusa dentro una vacca di bronzo con un toro che la possedette, nacque questo figlio. Beh, oggi di questo e altro parleremo con Barbara Alberti in diretta dal Faro di Finisterre. Un sentimento più bello, più puro, più elevato, posso osare di chiamarlo amore? Alzatevi in piedi, non mi vanno gli scherzi volgari. Ma è un'autentica proposta di matrimonio fatta nel momento che mi sembra più opportuno. Devo cogliere l'occasione fra un marito e l'altro. Siete volgare e villano. E poi non mi risposerò mai. Ma sì, invece, sposerete me. Voi? Voi? Non vi amo. E non mi piace il matrimonio. Sbagliate perché può essere piacevole. Piacevole? Per dindirindina, per gli uomini forse. Oh, smettete, vi sentiranno tutti. Avete sposato un ragazzo e un vecchio. Trovate un uomo dell'età giusta e che sa fare. E pensare che generazioni sono commosse per questo surrogato di amore, per questa indicibile, antipatica ragazza, questa sorta di scarto di sentimentalismo. Rossello Ara ha fatto piangere tante persone, oggi ancora è il motivo ispiratore di Bruno Vespa. Cosa ha a che fare questo con la crudeltà di aprile? Cosa ha a che fare con l'amore? Ecco, finalmente abbiamo stabilito il collegamento, è un po' difficoltoso, l'oceano è lontano, dal Faro di Finisterre, Barbara Alberti. Salve Barbara. Buongiorno Nicoletti. Abbiamo qui Barbara Alberti con il suo Minotauro e con Rossello Ara, perché questa mattina, nella crudeltà del mese di aprile, esce in libreria il nuovo libro di Barbara Alberti, che ho fresco nelle mani e ho il privilegio di parlarvene per primo. Barbara Alberti, L'amore è il mese più crudele, editore Nottetempo. Alberti, rubando tempo al lecito lavoro della sua trasmissione della Guardiana del Faro, è riuscito a comporre questo libro. Lo facciamo uscire proprio il primo giorno del mese più crudele, perché è un libro che racconta di tutta la crudeltà degli amori della storia, almeno dal suo punto di vista. Cominciamo dall'amore del Minotauro. Perché il Minotauro le suggerisce sentimenti amorosi, questo personaggio orribile, però allo stesso tempo concepito così, con un così devastante, dilatatorio atto amoroso? Perché in questo libro il Minotauro, e il Minotauro oggi, si è redento, infatti si chiama La redenzione del Minotauro. Lo hanno curato questi chiacchieroni di psicologi, di psicoterapeuti. Adesso lui non vuole più mangiare i fanciulli, sublimerà sulla scena, faranno la rappresentazione. E quindi va tutto ripulito, coi Ray-Ban, e insomma è redento, è stato curato, cioè questa era della chiacchiera che tutto lenisce, tutto uccide. E quando è lì, uno di questi ragazzini lo fa molto arrabbiare, lo illude, hanno una specie di piccolo flirt adolescenziale, poi si sente tradito, e al momento buono se lo pappa veramente. Se lo pappa veramente ed è contento perché si è ribellato ai dottori. Lui non vuole essere redento, lui è il mito. E quindi lui vuole recuperare il mito e dice: la prossima volta, se fanno i difficili, vengo con l'esercito. Oggi vogliono curarci la condizione umana. Quindi Alberti, se volessimo dare una prima ricetta in questo crudele mese che inizia, chi accanto un Minotauro non cerchi di redimerlo, di cambiarlo, si tenga il Minotauro per quanto di meglio potrebbe trovare. Se lo gusti nella sua meravigliosa deformità. Ci chiedono perché ci diamo del lei, il primo sms, ci diamo del lei pur conoscendoci da circa 30 anni, pur venendo dalla stessa arida e selvaggia terra dell'Umbria, ci diamo del lei perché siamo umbri. Siamo umbri, ci diamo del lei. Ci daremmo del voi se fossimo appartenuti a una generazione precedente, ma ci diamo del lei. 800 24 00 24, avete un Minotauro accanto? Vorreste averlo diverso o siete follemente felici? O volete curare la poesia? Curare la poesia in che senso, Alberto? Curare la poesia, ovvero estirparla. Questa mattina noi cercheremo con Barbara Alberti di dare un senso a questo inizio d'aprile, che non potete non sentire nelle vostre ossa, non potete non sentire nella vostra nostalgia di tempi passati, o non potete non sentire nella vostra attualità, di perfetti fruitori del mese d'aprile in tutte le sue accezioni, in tutte le sue fantastiche possibilità. Marcello, buongiorno. Buongiorno, sono in diretta? Sì, è in diretta. Buongiorno, innanzitutto mi complimento per la sua trasmissione. Senta, no, niente, io volevo mettere in evidenza un caso un po' anomalo, che rasenta un po' il patologico. Beh, più del Minotauro sarà difficile, ma la stiamo ascoltando. Sì, questa antitesi tra il corpo che invecchia e le pulsioni sessuali che provengono dal cervello, che sono... e che rimangono tali dal cervello, sì. Beh, sì, dal cervello. C'è un'assonanza, ma anche dal cervello, certo. Sì, ecco, il problema è che io ho combattuto con un problema che fortunatamente ho superato, in cui anche da giovane, per problemi magari legati a depressioni o a altre forme, le pulsioni sessuali vengono meno anche quando si è in età giovane. Quindi risoluzione, Alberto, sennò ci deprime. Cominciamo con l'amore, lei passa subito al non tiraggio adolescenziale. Comunque andiamo avanti. No, dico, ho avuto questa esperienza che è una cosa abbastanza brutta, per cui io quello che colgo è esorto a vivere anche, cioè non c'è alcun problema se uno ha 90 anni o 80 anni, se le pulsioni ci sono, si possono vivere. Sì, ma infatti nessuno si pone questo problema. Perché ci fa iniziare in questa maniera deprimente? Mi scusi, noi parlavamo di voli legati alla primavera, lei mi parla di un problema fisiologico da Nicoletta Carbone, fra l'altro risolvibile con medicamenti oggi molto diffusi. Perché le è venuto l'istinto di parlare subito di questo? Pare Barbara Alberti, faccia lei la domanda al nostro ascoltatore, questa è la mia prima reazione. No, io non ho nessuna domanda da fare, anzi vorrei solo osservare che oggi, mentre ai miei tempi era una grande, i vecchi erano perseguitati, erano ridicolizzati se avevano delle pulsioni sessuali, oggi ti vogliono vendere il sesso col pacchetto tutto intero, crociera e sesso compreso. Io credo che invece bisognerebbe anche avere la libertà di seguire le proprie stagioni, che sono diverse per ognuno. Non deve essere un obbligo. Ma adesso è un obbligo totale, devo dire. Ecco, ma perché... è quasi peggio della repressione della Chiesa. Noi, Alberti, che abbiamo ormai questa patente, non ci toglieremo più di persone sboccate e volgari, e mi sta bene, perché veniamo da una terra in cui sin da bambini si scherza su queste cose, il doppio senso fa parte della nostra fisiologica natura. Ma perché una trasmissione che noi iniziamo partendo alti, parlando di qualcosa che ci attraversa, legata al profumo del lillà, dei fiori, a un desiderio di essere amati, di essere accarezzati, essere toccati, parte subito dal primo ascoltatore, che è sintomatico poi di un trend, perché se questo chiama vuol dire questo è venuto subito in mente alle persone e parla subito di un problema fisiologico erettile, che non c'entra una mazza. Sono senza parole, francamente non ho una spiegazione. Però andiamo avanti, Rossello Ara, qual è il suo punto di vista? Sembrerebbe l'antitesi della primavera e dell'amore Rossello Ara, invece la mette nella sua antologia. Perché è una eroina dell'antipatia, è veramente una... lei è l'antiama, è colei che non saprà mai cos'è l'amore. E com'è stato il simbolo dell'innamoramento e del romanticismo per generazioni? Perché non è lei, perché è Rhett, perché viene amata da due giganti della simpatia. Una è Mamie, la bambinaia di colore, e l'altro invece è quel magnifico Clare Gable. E invece lei si attacca, lei è una narcisista totale, non vuole Clare Gable perché lui la porta a letto, perché lui ha la carne, perché lui ha i sensi. Lei è naturalmente una figa di legno delle peggiori. Totale, lei è talmente narcisista che si attacca a questo ambiguo Ashley, a questo damerino bugiardissimo che le farà credere per interesse tutta la vita che l'ama anche lui, e c'è il momento della verità poi, quando muore Melania, la moglie di lui, e lei ancora non è spirata, e con un senso, con un totale ignoranza dell'esistenza dell'altro, lei si butta sul non ancora vedovo e gli dice adesso potremo stare insieme. Lui è l'unico primo momento di sincerità e grida, parlando della moglie, ogni mio bene se ne va con lei. E finalmente lei capisce che non gliene è mai importato nulla, rincorrerà Rhett, che non lo vuole più, al quale dirà che sarà di me, e lui dirà la meravigliosa frase: francamente me ne infischio. Ed è un film sull'amore che ci lascia con tutta l'amarezza dell'amore. Quindi se cominciassimo a dare una prima graduatoria, ammesso sia possibile, tra il Minotauro e Rossello Ara, ispira più sentimenti di simpatia, invito a lasciarsi andare al profumo di aprile il Minotauro che Rossello Ara, perché il suo appetito è più sincero. Lui se li gusta proprio sti ragazzi che si mangia, mentre lei è una mangiatrice di uomini senza gusto, perché poi alla fine sbaglierà sempre, si sposerà alla fine con questo delizioso Rhett, e la prima cosa che dirà, cioè, a cosa stai pensando in viaggio di nozze, e lei a quanto siamo ricchi. 800 24 00 24, signore, datevi una svegliata, perché stanno chiamando soltanto uomini, non vorrei che l'avvio del primo ascoltatore abbia dato un senso che non è quello che vogliamo dare a questa trasmissione. Vittorio ha detto trasformazione, bene. Sì. Vittorio, ecco. Sì, io mi sento un po' a disagio a raccontare questo fatto che mi è accaduto, perché sono abbastanza adulto, 46 anni. Parli come se si trovasse di fronte al confessore, stia tranquillo, rimarrà un segreto tra noi. Non ci ascolta nessuno, no. Va bene. Allora, io non ho mai avuto un grande successo con il sesso femminile. Provi con quello maschile, che ne so. Sì, no, per fortuna no, con quello maschile. Fortuna, poi non lo so. Si provano anche delle grandi felicità in qualsiasi inclinazione. Adesso non vuole per forza infuocire anche Vittorio. Vittorio, prego. Prima... Vittorio, andiamo avanti, c'è stata una digressione. Sì. Allora, da Finistero. Molto semplicemente, essendo una persona molto timida e evidentemente anche di aspetto non particolarmente venusto. Quindi lei è brutto e timido, ecco questo. Così, lo so. Parole più semplici. Lei però pensi quanti brutti timidi sono diventati uomini di successo, e poi anche Don Giovanni scriteriati. Comunque vada avanti, vediamo se riusciamo a risolvere. Ecco, infatti il problema è proprio questo, che scrivevo tante cose perché ritenevo di avere una vena poetica e tenevo tutto quanto dentro ai cassetti. Secondo lei le donne vogliono le poesie, si figuri? Come, non ho capito, scusi. No, secondo lei le donne le conquista con le poesie? E ho detto, no, si figuri. Assolutamente, infatti tenevo tutto chiuso dentro al cassetto e ho vissuto la mia vita grama, fatta di pochi rapporti ma molto intensi, e soltanto che è arrivato a una certa età con... 46 anni, non mi sembra. Oggi è un ragazzino. No, appunto, diciamo che tra i 16 e i 46 c'è un piccolo intervallo in mezzo, e ho cominciato poi semplicemente, se una persona mi ispira un sentimento o qualcosa, a scrivere, a recapitarle queste missive in maniera molto semplice, molto spontanea. Sì, ma nel frattempo passa un sacco di tempo e se la tromba tutto il vicinato, mi scusi la libertà, essere un po' più diretto e immediato se lo scopo è la conquista amorosa prima. Posso domandare, poesie cartacee o per email? Cartacee. Quindi ancora è un bradipo della conquista. Questo dovrebbe piacere. No, molto. Ma io sono anche un esperto informatico, almeno lo ero, perché poi stare dietro a tutte. E perché non mette insieme questa sua qualità con la sua vena poetica e manda almeno via mail un SMS? Sì, anche, no, ma effettivamente. Vabbè, alla fine ci riesce a risolvere il problema primaverile con questo stratagemma? Perché l'autunno è dietro le porte, arriva subito. Certo, ma guardi, le dico subito, la cosa che è nata così un po', diciamo così, quasi spiritosamente, poi alla fine si è rivelata un grande successo, per cui sono in grande disagio, perché praticamente adesso ho delle occasioni che in passato non mi sarei mai. Ma perché a disagio? Stia contento, qual è il problema? Sì, no, infatti no, sono, perché sono le vertigini, ecco. A teme l'infarto, teme? No, le vertigini. Temo di cadere male, ecco, diciamo. Ma se ha paura di farsi male, non si avventuri nemmeno. Metta, Perché si cade sempre, ci si fa sempre male. Questo è normale, sì. Vero Alberto? Comunque, senta, io guardi, credo che chiunque voglia spacciare consigli d'amore è veramente a livello di Vanna Marchi, e lo siamo tutti noi che rispondiamo alle lettere d'amore. Ma io conosco veramente dei brutti, affascinantissimi. Che hanno un trucco. Una volta me lo disse uno di loro: ma tu sei un conquistatore? E mi disse: io le donne le guardo veramente, io mi occupo veramente della donna che ho davanti. E questa è un'arma di seduzione folle, perché spessissimo chi ritiene di avere dei difetti fisici o altro è poi molto intento a se stesso, pensa solo a se stesso e vuole essere amato, magari dicendo sono brutto, sono piccolo, sono timido e via dicendo. Questo non innamora. Innamora il fatto che veramente sei capace di vedere le persone che hai di fronte. Alberti, devo dire che abbiamo solleticato la vena poetica dei nostri ascoltatori. Leggo un SMS che è arrivato, una bella poesia su Aprile l'amore. Ad aprile la vita è bella, perché la primavera all'inverno si ribella e nelle mutande un toro brilla più di una stella. È un ascoltatore che ha mandato. Parente di Elliot. Ma parente di Elliot. Laura, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io volevo parlare dell'amore, ma più che altro della nostalgia dell'amore, perché in questo momento il mio rapporto d'amore si è interrotto. Però voglio dire, adesso non è una questione di sublimazione, però quando l'amore ti manca, a me credo che manchi soprattutto l'amore inteso come protezione di un uomo, ecco, credo che almeno questa che, diciamo, un po' la cifra che do in questo momento all'amore, mi manca molto. Ma il profumo di aprile è qualcosa di diverso dal bisogno di protezione, è la fiamma che esplode all'inizio, poi dopo, chiaro. La nostalgia dà spessore all'amore, uno si accorge di aver avuto amori quando gli amori ci accannano e ci lasciano, sennò prima non se ne rende conto. Sì, è vero, però se tu dai sfogo a questa fiamma d'amore, ti garantisco che in giro ci sono tante persone che riducono questa fiamma a un basso movimento sessuale. Beh, se quello ti fa schifo è un altro problema, ma anche quello fa parte dell'amore. No, ma non è, certo, anche quello fa parte dell'amore, però... io sono la prima donna che interviene, sì? Sì. Sì. Sì. Allora, le donne pagano con la solitudine proprio la volontà di non vendere l'atto d'amore a un puro atto così. Alberti, questa roba sua, parli lei con la signora, perché avrei argomenti che la renderei infelice. Non lo so, io credo soltanto una cosa, che questa idea che di un maschio che ci protegge mi sembra molto strana, perché di solito siamo noi a proteggerli. Loro sono degli orfani. E quindi non, sottoscrivo, è verissimo. L'idea di un maschio che ti protegge è molto arcaica, molto è una delle cose che tenacemente rimangono attaccate all'immaginario. Ma io, guarda, non ci credo a queste generalizzazioni. Allora racconti una cosa che le è successa, perché la generalizzazione è che i maschi vogliono solo quella cosa, ma magari i maschi è vero che vogliono solo quella cosa, vogliono parlare e che nessuno li interrompa. Questo è ciò che vogliono i maschi oggi, per cui non mi dica magari ci fosse questa corsa, che è una nobile corsa in fondo al corpo, voglio dire, perché il corpo è l'anima. È una caccia al tesoro. Il corpo è l'anima, e non ho mai capito bene come si possa dire solo sesso. Come può essere solo sesso? Mischiare i corpi, che è così importante. No, ma io non rinego. Ma non è obbligatorio, non è obbligatorio. No, ma infatti non è obbligatorio, però io rinnego semplicemente, cioè voglio dire, non mi piace, mi fa star male questa cosa che uno deve dare libero sfogo perché è aprile. No, cioè voglio dire, io do libero sfogo quando ho di fronte una persona consapevole con cui fare un atto d'amore è un qualcosa. No, senta, mica scambieremo una metafora poetica per un consiglio psicologico. Per carità, no, guardi, no, gli psicologi e gli sessuologi sono i massimi responsabili del calo del desiderio degli ultimi 30 anni, perché fanno passare la voglia. Tu vedi questi qua che non lo conoscono, ma manco per sentito dire, o giusto. E quindi, per favore, dopo siete così traviati, siamo tutti così traviati, povere creature, che se Nicoletti fa questa partenza, come sempre, dadaista come lui, e lei lo prende per un consiglio, non siamo mica crepè, guardi. Vabbè, Alberti, ognuno ne faccia ciò che meglio crede, ci fermiamo un istante per dare la linea alle informazioni della borsa. Melog. La realtà condivisa. Ma cosa fai? Voglio farti un discorso sulla famiglia. Quella santa istituzione inventata per educare i selvaggi alla virtù. E adesso ripeti insieme a me. No, no, no! Ripeti. Avanti, santa famiglia. Avanti, ripeti. Avanti, santa famiglia. Ammetto che il passaggio è stato repentino dall'amore zuccheroso e mieloso di Rossella Vara a quello imburrato di Ultimo Tango a Parigi. Ma questa è la sequenza degli amori descritti da Barbara Alberti nel suo ultimo libro, Amore, il mese più crudele, edizione Nottetempo, che esce oggi. Che è una rassegna di episodi, di personaggi, di coppie reali, presunte, ipotetiche, drammaticamente presenti nel nostro immaginario, o molte di cui parleremo anche poco conosciuto, che la Barbara Alberti ha letto, ha riletto, ha reinterpretato, ha fatto suo, insomma, ha sovrascritto la storia, e questo ci affascina. Dal Faro di Finisterre, Barbara Alberti. Ecco, avete fatto sentire questa la più famosa sequenza del film. L'unica per cui passerà la storia, perché... Beh, io devo dire che il film è secondo me molto bello, perché la... Ma se poco fa mi ha detto che faccia schifo. No, ho detto che questa sequenza la critico molto. Ma il film è molto bello perché è il mito di Amore Psiche, ovvero sia invita gli amanti a tacere, a non sventolare in televisione dalla finestra, a non ostentare l'amore, perché l'amore va taciuto. E quando Apuleio ci racconta di Amore Psiche, ci sono questi due amanti che si adorano, un dio e una mortale, e lui le ha sempre detto non volermi guardare in faccia, altrimenti, e infatti al momento in cui lei trasgredirà e lo illuminerà con la lanterna, ne avranno dei guai terribili. E così è l'Ultimo Tango a Parigi, qua dove questa bellissima studentessa, e Marlon Brando, magnifico nella sua prima decadenza, diciamo, si incontrano in questo appartamento, non si conoscono, e lui l'ha ammonita, dice qui non servono nomi, al momento in cui i nomi verranno detti, lei gli sparerà, perché l'identità, no, perché l'identità è il delitto. Lei fuori è una piccolissima borghese antipatica, ma lì è un amante, lì è una dea. E questa scena famosa del burro, che appunto, che è famosissima, quando lui, che usa per sodomizzare Marie Schneider, ovvero la sua psiche, la scena è bellissima, però peccato che durante l'atto lui tenga questo sermone che abbiamo sentito, cioè uno sermone ideologico che avrebbe desolato Apuleio. Ma come? Cioè, sei così poeta. Ma fu il motivo dello regista. Scandalo. Sì, però sei così poeta. No, lo scandalo fu la sodomizzazione in sé. Sì, ma perché parlava della famiglia, no, mentre sodomizzava. Secondo me, e comunque, non è che l'ha fatto, è un poeta, Bertolucci non lo fa per fare scandalo, ma cioè sei così poeta da mettere in scena Amore con un vecchio cappotto invece che con le ali bianche, e poi gli fai fare una predica nel momento sacro. Cioè, Bertolucci. Io lo perdono perché lui è sempre capace di scivolate generose. In questo caso è una scivolata proprio. Però fa ridere, fa ridere, e infirma una scena coraggiosa, bella, forte, carnale e spirituale insieme. Ma come pensi sempre che il sesso. L'Italia si è spezzata a metà su questo film. Ma l'ha mandato scena. A rogo, grande stato onore bruciato. Per un autore. Sì. Il narcisismo eretico di Bertolucci sarà stato veramente. Ma ha provato a riguardarlo oggi, entusiasta. Ultimo Tango a Parigi. Sì, ho provato. Di una noia mortale. No, cioè la parte di Jean-Pierre Léaud è bruttina, la parte ideologica, la parte di moda, diciamo. La parte dell'amore io la trovo molto bella. Questi due si incontrano per caso e scoppia l'essenziale dell'amore, questa conoscenza dei corpi, questa continua conoscenza dei corpi che noi chiamiamo corpi, che dovremmo chiamare anima poi, perché è la stessa cosa. Sì, ma siccome sappiamo qual è il clou del film, stiamo sempre a aspettare quello, quindi tutto il resto è vanificato, è solo un grande preludio a un inchiappettato. Non è vero, c'è questa ragazza che c'ha dei seni che sono un altro personaggio, questi seni scattati tanti questi seni meravigliosi prima che fossero ancora tutti rifatti, e questi ricci, questa piccola medusa, e lui quest'uomo che comincia, che è stato bellissimo e che lo è ancora, nudo sotto il cappotto, magnifico, no? Grande esibizionista. Comunque, Gianna, buongiorno. Buongiorno. Io sono felicissima per due motivi. Uno, perché posso avere la possibilità di parlare con voi. In modo particolare volevo mandare un grandissimo, affettuosissimo abbraccio a Barbara. Ah, io me lo piglio, signora, grazie. Ascolti Barbara, io tutte le domeniche mattina l'ascolto con grandissimo piacere. È per me un bagno nella meraviglia. Io l'adoro Barbara, lei è una donna intelligentissima che merita tantissimo, ha fatto delle scelte che vorrei fare io, forse non ne ho l'opportunità. Allora Gianna, grazie. Andiamo alla primavera però. Andiamo alla primavera, visto che stiamo sulla sviolinata, facciamolo pure a Nick, che se li merita, inventato. Anche lei, no, Nicoletti, sei signora, anche per lei. No, non sono geloso, ma faccio partire la motosega, no, se va avanti un altro po'. Ascolti, dunque io, come ho detto alla telefonista, stavo stendendo i panni di Arezzo, non ho capito bene il l'amore e la primavera. L'amore, ha una storia sua d'amore da raccontarci? Esiste, non ho una storia d'amore, ne avrei tantissime. E ne racconti una. Un amore che dopo tantissimi anni si è rifatto vivo con una telefonata. Oh, dicendo che li manco tantissimo, li manca il mio sorriso, e gli ho detto guarda, ora tutti i capelli bianchi, non sono più quella di prima, e chissà se tu mi riconosceresti, però abbiamo detto che con calma ci dovremmo vedere. Beh, si faccia la tinta nel frattempo, può andarsi a fare, può simulare, no, un po' nella penombra. No, è stata una scelta bella. Con la penombra e il cinto contenitivo si fa miracoli. No. Lei butta tutte le cose in questo modo, a me non piace. Io invece volevo dire che l'amore è una cosa divina. Sì, però così è anche crudele. È l'anima della vita. Sono felice di Beh, questo però uno dice proprio quando c'è i capelli bianchi, che ho anch'io, Gianna. Grazie. Certo, Cinzia, certo. Vediamo se riusciamo un po'. Grazie, arrivederci. A mettere i crisantemi da parte e parlare dei lilla, che sarebbe ora. Cinzia. Sì, buongiorno e ciao a tutti. Sentite, io ho una storia un po' strana, mi sono innamorata giovanissima di questo maggio. Ma anche lei è vecchia, no? Perché non vorrei fare anche oggi. 50 anni. Quanto? 50. Vabbè, 50 anni ancora. Ma mi sento giovane. No, il più bello donna del mondo ha 50 anni, Nicoletti. Sì, va bene, ecco. Andiamo avanti. Alberto. Mi sono innamorata di questa ragazza proprio fine marzo, primi di aprile. Ma quanti anni fa è successa questa cosa? Avevo 13 anni, lui ha avuto un gravissimo incidente stradale, è rimasto tumefatto il viso per un anno, i miei mi proibivano di vederlo. I ragazzi lo chiamavano lo sfregiato, io ero carina. Scarface. E ci chiamavano la bella e la bestia. Io me lo sono E la bestia sposata. Chi era dei due? Lui. Solo perché era un po' sfregiato, scusi. No, era tanto sfigurato da una parte. Cioè, completamente, orribilmente... Che crudeltà! E quindi gli amici, invece di volergli più bene, gli dicevano... Sì, perché ero molto corteggiata e speravano che io lo lasciassi, magari per mettermi con uno di loro. Ah, era e per io... denigrarlo ai suoi occhi? Ma per lei aveva motivo di fascino questo volto deturpato? Era un po'... Sì, era lui. Per me era sempre carino come è tuttora. Siamo ancora insieme da 32 anni e io lo amo tuttora, questo uomo. E i miei genitori addirittura mi proibivano anche loro di vederlo. Ma nel frattempo si è fatto una plastica o ha sempre metà volto? No, nell'arco di un anno ha una cicatrice, però è guarito perfettamente. Per me è il mondo Quindi, più bello. Come che è nuovo sia. È tornato? Sì, e quando si è innamorati per me non c'è stagione, però la primavera mi ricorda sempre questo fatto bruttissimo e io ho tenuto duro e siamo ancora insieme. E ha vinto, bene, si tiene rispettato. Grazie Cinzia, vediamo. No, noi facciamo il carabiniere buono e quello cattivo, mentre Nicoletti fa il cattivo, invece io l'abbraccio forte e trovo molto bella questa storia. Io mi sono scarnificato finora da questa telefonata a sentirle, perché onestamente 800 24 00 24, sollevateci vi prego, date un senso a questa primavera, diteci che ancora avete carni fresche e animo gentile, non crogiolatevi nel ricordo di mariti che avete vicino da 40 anni, di mogli fedelissime e integerrime. Una volta tanto gettatevi nelle fessure laterali che si aprono nella vita integerrima di ogni essere umano e raccontateci qualche amore degno di essere raccontato per questa primavera. Claudio. Pronto Nicoletti? Oh. Salve, io... Da dove chiama? Chiamo da Sassari. Ah, bene. Io no, parlavo da un centro anziani, da una bocciofila, oppure è per strada tranquillamente anche lei a sentire il profumo della primavera? No, purtroppo sono in ufficio, che il profumo della primavera qui arriva poco, però... Guardi, negli uffici è il momento di massima confusione, aprile, perché tutti gli amori di scrivania si risvegliano, quindi esatto. Non nasconda questo aspetto. Esatto, io chiamo per dare il mio contributo al mese di aprile e l'amore, perché io ho avuto tanti amori durante la mia vita, breve per il momento, 32 anni, ho avuto tanti amori, però ho detto soltanto ti amo a due donne, e entrambe di queste le ho conosciute durante il mese di aprile, ed è stato un po' una coincidenza. E ti amo l'ha detto entro i 30 giorni di aprile o ha aspettato maggio, giugno, luglio, agosto, settembre? La cosa poi è andata avanti, infatti poi dall'ultimo mio grande amore, che è nato durante l'ultimo aprile, ho avuto anche una figlia, la cosa infatti all'inizio mi ha lasciato molto perplesso, pensavo cosa fare. È nata a dicembre? No, è nata a maggio. Allora non l'ha concepita aprile, scusi, aprile 9 mesi fa dicembre. No, ho conosciuto la donna. È aspettato un anno, quindi vabbè. Fai conto. Si è aspettato un po' e niente, quindi, e poi comunque diciamo che questo aprile, diciamo che mi ha dato i miei due grandi amori, di cui comunque l'ultimo mi ha dato anche una figlia, infatti all'inizio ero un po' dubbioso, titubante, non sapevo bene cosa fare. Invece per avere figliato era titubante? Sì, perché avrei dovuto rinunciare alla mia vita. Lo so, capita. Ci fermiamo un secondo, devo dare scusate la brutalità, ma devo dare la linea alle informazioni del traffico, poi riprendiamo sperando di avere almeno nell'ultima tranche di questa trasmissione qualche amore degno, qualche amante, qualche amore degno del libro dell'Alberti, perché se l'amore è il mese più crudele, finora abbiamo sentito nostalgie, tristezze, cinti erniari, capelli bianchi e uomini sfregiati. Vediamo se c'è qualcosa che dà più senso all'aprile e all'amore. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Con somma e incolmabile depressione riprendo a parlare di aprile e delle tentazioni primaverili che ancora non ho avuto assolutamente nelle testimonianze del nostro pubblico. Ho avuto sorrisi impossibili perché sei senza denti a distanza di decenni dagli amori consumati. Ho avuto leciti, importanti, benedetti da Dio e dagli uomini, amori coniugali, bambini che nascono. Ho avuto nostalgie, ho avuto sensi di impotenza. Non ho avuto mai la frenesia, l'uscita dal mondo, l'impossibilità di contenere i cavalli impazziti dei propri sensi di questo mese di aprile. Ne parliamo perché oggi esce il libro di Barbara Alberti, Amore è il mese più crudele, Nottetempo editore, in cui si raccontano storie fantastiche e di amori impossibili. Ma fra queste ce n'è una che forse non conoscete, che è la storia in assoluto più assurda e più interessante, quella dell'uomo senza braccia. Alberti, l'uomo senza braccia chi è? L'uomo senza braccia è un personaggio di un film di Todd Browning, il famosissimo autore di Freaks, film muto del 1927, dove c'è un grande lanciatore di coltelli che non sbaglia un colpo in questo circo, e particolarmente bravo perché lancia coi piedi, in quanto lui è un uomo senza braccia. E Nanon, che fa da bersaglio ai suoi lanci, è innamorata di lui proprio per questo, perché lui non ha le braccia e lei ha paura dei maschi. Come la signora dello sfregiato prima. Non vuole essere abbracciata. Beh no, la signora era un passo avanti rispetto a nevrosi. Beh, però la poteva abbracciare con le gambe, gli faceva tutte queste cose fantastiche. Sì, ma nel no, lei quello non vuole immaginava. Essere abbracciata. Lei vuole essere lei ad abbracciare. Se non che c'è un segreto. L'uomo senza braccia in verità ce le ha, e come. È un criminale che si è nascosto al circo e si fascia le braccia. E quando vede che Nanon ha veramente orrore del forzuto Malabar, il forzuto del circo che la corteggia, perché ha paura di essere abbracciata, cosa fa? Per averla per sempre scappa dal circo, va da un... lui che è un ladro, è un criminale nascosto, va da un medico della mala che gli taglia le braccia. Si amputa entrambe le braccia. Sì. Dopo, avendo fatto questo sacrificio totale per tornare da lei, torna da lei per sposarla e la trova tra le braccia del forzuto, del bracciuto Malabar, perché lei ha superato il trauma. E allora finisce con questa risata muta, straziante, dove c'è tutta l'impossibilità dell'amore, ed è anche un monito a quelli che si trasformano per compiacere chi amano e poi non si riconoscono più, e quella se ne va con un altro. C'è il solito saputello che manda l'SMS: Frix non è muto. Lo so bene, non è muto, questo è un film precedente a Frix. È vero, ho sbagliato, però ho detto così, è vero, perché è del 29, giusto l'anno del muto. No, però ha ragione. Sì, la Valeria ha detto l'ultimo che Frizzon... muto di, infatti di Todd Frizzon, Browning. Cioè la famosa ballata della Coppa dell'Amore, l'abbiamo mandata tante volte. È una di noi, è una di noi. È una di noi, è una di noi. Dice, no, mostri, non sono una di voi. Qua è esattamente il contrario, però. È la bella trapezista che sposa il mostro per interesse, i mostri la accolgono nel loro circolo di mostri, lei a un certo punto si ribella, gli mostra tutto il suo disprezzo e loro la mostrificano, la trasformano nella gallina, nella donna gallina, gli tagliano gambe, braccia, la mettono a diventare donna gallina. Ma questo film ha rovinato l'autore, lui non si è più riavuto, gli hanno dato un ostracismo terribile, perché la tesi era troppo tremenda, la tesi era che i veri mostri sono i normali. E l'America non glielo ha perdonato. È andato a rogo, come in parte, come anche Ultimo Tango a Parigi. Oh, finalmente. Maria Antonietta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ci risollevi, Maria Antonietta. Sì, allora, voglio dire che la primavera è una forza incredibile. Mi stupisco che tutti quanti non la sentano. Vorrei pensare che ci fosse un mondo che sente di più la voglia di fare l'amore, uomini, donne, in tutti i modi. Rimango stupita dal andare in giro e accorgermi che tante persone che conosco non fanno mai l'amore. Però Maria Antonietta, si rende conto? Guardi, io ormai conosco il pubblico di questa trasmissione, sì? E capisco le reazioni, che è indicativa di un sentire generale. Quello che qui accade, bene o male, è in piccolo quello che accade nel mondo. È proprio vero che questo aprile la gente non lo vuol sentire. La gente lo vede soltanto legato a un problema di semplice copula chimicamente supportata o queste terrificanti nostalgie dei vecchi delle vecchie. Io stesso sono vecchio, si figuri, ma mai ammorberei il mondo con le storie delle mie nostalgie. Lei invece ci dà un messaggio positivo. Lei la darebbe al mondo intero in questo momento? Sì, bene, sì. Ma mica si usura, come dicono, con un velo di cipolla ogni anno, dicono le donne. Con tutto il buon sapore che la cosa può avere, di gioia, di felicità, di superamento delle realtà limitate in cui viviamo. Cioè è una forza, è un dono che abbiamo, no? Questa poi, gioia di la disponibilità l'amore. Non significa che poi sempre in tutte le occasioni si traduca in un atto. Però esiste questo desiderio di prendere, di essere presi in questo momento. Nell'aria si sente, aumenta, non si può negare. Aumenta, diventa incontenibile. E lei come fa a contenerlo? Cerco di vivere serenamente, felice. Docce gelate, farmaci, con gli occhi aperti. No, vivo felice, cioè nel senso poi dopo non si possono forzare le cose, no? Però è pronta al nuovo, diciamo. Sì, certo, magari. E perché dice magari con nostalgia, come se non fosse perché possibile? Qual è l'ostacolo? Vedo, io lo so come vado in giro e vedo che alle persone questa cosa non interessa un po' tanto. Cioè lei non riesce a dare un segnale e trovare, diciamo, dei complici in questo suo desiderio fugace? Vedo che la cosa non interessa molto. Ma io però, scusi signora, poco fa, poi chiamano delle donne che dicono ma i maschi sono satanati, vogliono soltanto sbatterti al muro e poi dimenticarti. E poi invece sono un po' dozzinali, questo è dozzinali, ma anche disinteressati. Ci spiega un po', perché anch'io sono lontana dalle cacce. Maria Antonietta, nostro collega mi scrive su Facebook: anche io ho la primavera nelle mutande. Lo dico come licenza ecco. Primaverile. Penso che gli uomini siano più interessati siano schiacciati dal reale in questo momento. Questo dalla difficoltà della vita reale. E anche noi, lì non è questione di sesso, perché effettivamente ci stiano cacciando a forconate in un recinto per farci squartare dalle banche. Questo sicuramente non è un momento talmente molto erotico. E è proprio nelle difficoltà in generale poi che esplode invece un erotismo di compagnia, di consolazione. Oh, vabbè, le nostre madri e le nostre nonne vivevano gli amori nei rifugi antiaerei. Possibile che oggi un importante problema finanziario ci toglie la voglia dell'amore d'aprile? È più mortificante dell'avventura e della paura della morte, devo dire. Prego, Maria Antonietta. È una follia anche questo, basta sentire, cioè nel senso basterebbe andare in giro a fare una passeggiata con il sole di oggi e ci si accorge che vabbè ci sarà la crisi, ci sono tanti problemi, ma la nostra vita scorre. Per trarne forza anche per reagire, dice lei, certo. Certo, cioè qual è la forza più bella dell'essere felicemente amorosi? Maria Antonietta, siccome non è nello stile questa trasmissione, sorvolerò, ma mi stanno arrivando sms di persone che chiedono il suo numero. Lei pensi, c'è talmente reale bisogno e desiderio di uscita dal mondo che basta una signora che gentilmente, moderatamente, soltanto in un'ombra di malizia, si dice disponibile e aperta alla primavera, sarebbe la più normale delle esternazioni. Già ci sono i provoloni che dico dammi il numero, io glielo darei il numero, ma Antonietta, vedere cosa fanno poi, cosa piffero fanno poi. Grazie Maria Antonietta. Non glieli dia, la signora si ritrova da sola. Ma certo, chiaro. Beh, fa paura dirlo questo nella realtà, però mi sembra molto più frequente far l'amore a chiacchiere. Ah, certo, ma gli uomini oggi siamo molto chiacchieroni, questo è vero. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti. Buongiorno. La mia storia è un po' una storia così particolare. Dopo 15 anni che non vedevo questa persona, che avevo visto soltanto per 2-3 giorni, 15 anni fa, sulle spiagge di Marina di Carrara, quindi 15 anni dopo ci ritroviamo in una vacanza comune, senza saperlo. Una vacanza in comune, ci troviamo in questo luogo che ci ha fatto scattare, aprire i nostri cuori, e abbiamo cominciato questa relazione a distanza, perché questa persona non era vicina, era molto lontana. E questo è un grande vantaggio per la passione. È un grande vantaggio per la passione, sono pienamente d'accordo. È questa persona di Città del Capo, io abito in Italia e ci siamo incontrati in Brasile per caso. Cioè se l'hai scelta proprio fuori tiro per star tranquillo, che l'amore rimanga tale. C'è stato questo pensiero iniziale di lasciarla fuori tiro, però la frequentazione di questo continuo mio viaggio e lei in Italia, io Città del Capo, ha fatto in modo che abbiamo pianificato di farla venire su in Italia e di sposarla. Ah bene, così ha trovato una maniera per uccidere l'unica grande occasione d'amore che ha avuto. Ringrazio Barbara Alberti, L'amore, il mese più crudele, Notte Tempo con fantastiche storie legate all'amore. Arrivederci Alberti. Arrivederci.